28 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 28 novembre. In questi giorni non ho scritto nulla nel giornalino perché ho avuto molto da fare per mettermi in pari con le lezioni. In casa tutti sono contenti di me e il babbo ieri mi ha detto: «Forse ti si presenta l'occasione di riguadagnare la bicicletta che hai perduta per la tua cattiveria con Maria. Vedremo». Fine del 28 novembre.